Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a voi e buona Pasqua anche da noi di Cuore Denari, anzi precisamente buona Pasquetta, lunedì dell'Angelo. Tanti auguri Deborina. Grazie, tanti auguri anche a te Nico. Lunedì dell'Angelo che ci vede comunque pronte e scattanti per una nuova puntata speciale di Cuore Denari, mentre immaginiamo vi stiate preparando ad una giornata in compagnia, magari all'aria aperta e con qualche buon manicaretto. E allora, per accompagnarvi in questa giornata di festa, torniamo ad aprire l'album dei ricordi di Cuore Denari e ritrovando le voci dei nostri esperti, le loro riflessioni, i loro consigli, e iniziamo parlando di successo. Una parola che può avere molti significati: per alcuni significa avere soldi, potere, carriera; per altri sentirsi realizzati dal punto di vista personale, sentimentale e familiare; per altri ancora un insieme di questi aspetti diversi. Allora, a Cuore Denari abbiamo parlato di successo e anche di come reagire agli insuccessi dal punto di vista personale e lavorativo. Ci hanno accompagnato due amici di Cuore Denari, Alessandra Faiella, comica, attrice, scrittrice, e Roberto Re, formatore e coach. Andiamo subito a riascoltarli. Successo è solo accaduto, è un participio passato, come una sfera d'argento che lungo un piano inclinato scivola. Sapore, lo scudetto è uno scudo che non ci difende, si corre, si cade, si sale, si scende, la fortuna è una stella che non ha un nome, e poi basterebbe fare ciò. Diamo subito il benvenuto ad un'amica di Cuore Denari, certo, Alessandra Faiella. Ciao. Buongiorno, Alessandra. Sono felice di essere di nuovo qui, qui sono come a casa. Brava. Cosa dobbiamo dire di Alessandra Faiella? Attrice, comica, scrittrice? Chi più ne ha più ne metta. Fermiamoci qua. Fermiamoci. Sul profilo qui. Facebook mette anche un insegnante, naturalmente, corsi di teatro, sì, e sì, non sì, solo, sì, insomma, sì, anche è quello anche è un bel insegnante impegno di autostima. L'autostima è fondamentale, sì, per il successo, quindi è importante coltivare l'autostima per arrivare al successo. Poi il successo ha tante declinazioni, come diremo, penso, durante questa puntata. Ma no? Se volessimo dare subito una definizione? Il successo, secondo me, è fare quello che veramente si desidera e farlo con piacere ed essere gratificati dal proprio lavoro e dalla propria vita. In realtà però, soprattutto noi mestieranti dello spettacolo, non ci accontentiamo mai. Credo che la dannazione delle persone di successo è quella di non riuscire mai a sapere qual è il limite. Io stessa certe volte riesco a dire: il mio successo, sono già a un buon livello, no? Ho quello che dicevo prima, cioè sono contenta della mia vita, della mia carriera, del mio lavoro. A volte invece provi una sorta di frustrazione perché vorresti di più, guardi gli altri, dici: però gli altri hanno più di me, però loro hanno più successo di me. Quindi è tutto una dialettica tra quello che è non un accontentarsi nel senso negativo, ma un gratificarsi di quello che si ha, e a volte invece desiderare di più. Credo che il segreto sia trovare un equilibrio tra queste cose. Voglio raccontarvi i dati di una ricerca condotta da LinkedIn, il social network impiegato principalmente per lo sviluppo di contatti professionali. Pensate che su 5.300 donne dai 18 ai 65 anni, il 63% delle intervistate in tutto il mondo dichiara di tenere al successo professionale come ricompensa e attestazione nell'essere riuscite a conciliare lavoro e famiglia nel miglior modo possibile. Quindi noi, le donne, devono essere sempre multitasking. Purtroppo nella classifica mondiale tra le lavoratrici di maggior successo, le italiane occupano gli ultimi posti insieme alle svedesi e alle spagnole. Allora, vi riconoscete? Lo chiediamo alle nostre amiche all'ascolto. Certo. Per voi il successo che cos'è? Davvero cercare di conciliare la vita professionale, lavorativa, con quella familiare, relazionale? Certo, è una precisazione molto interessante, perché spesso quando parliamo di successo utilizziamo questo termine associandolo istintivamente quasi e solo esclusivamente all'ambito del lavoro, anche se non per forza al giorno d'oggi questo si deve intendere come sinonimo di realizzazione professionale o di un'ambizione soddisfatta. Purtroppo, peraltro, poi con i dati sul mercato del lavoro che ci troviamo a commentare ogni mese, non possiamo nasconderci il fatto che per tanti nostri connazionali già solo banalmente trovare un impiego è un successo. Questo vale in modo particolare per i giovani, dei quali parleremo nel corso della trasmissione. Sono 2,5 milioni i giovani fra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano, ci mettiamo dentro anche le giovani, i cosiddetti NEET, in questo triste primato. Siamo secondi solo alla Grecia, della quale continuiamo a parlare ogni giorno. Però, Deborah, lo sappiamo sì. che tra i giovani italiani ce ne sono anche tanti che non si arrendono, ma che devono però lottare contro alcuni ostacoli molto duri: la precarietà del mercato del lavoro, che naturalmente influenza anche le relazioni, la difficoltà nel progettare e realizzare una carriera all'altezza delle aspettative. Spesso c'è anche la scelta di andare lontano, di espatriare, di diventare, come si suol dire, un cervello in fuga. Anche questo però non è facile da farsi. Per quello che riguarda invece, come dire, questo che possiamo definire un gineceo radiofonico, cerchiamo di venirne fuori adesso, perché abbiamo invitato anche un uomo. E che uomo, direi, Roberto Re, che è il più noto mental coach italiano, un formatore che in Italia conta il più alto numero di partecipanti ai suoi corsi. Io do qualche cifra, vedremo se poi lui sarà in grado di, naturalmente lo sarà, di aggiornarla: oltre 300.000 in 20 anni di attività. Autore di Leader di te stesso, bestseller che ha venduto oltre 300.000 copie, è uscita con il suo terzo libro, Cambiare senza paura, edito da Mondadori. Roberto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutte le donne che sono lì. Abbiamo fatto... sono in minoranza oggi. Allora, il biglietto da visita che abbiamo fatto è naturalmente streaming sito per ragioni di tempo, perché potremmo continuare ancora a lungo. Ma tu sei un formatore, come si dice oggi, un coach, il termine esatto in inglese, peak performance coach, allenatore per prestazioni eccellenti. In pratica il tuo compito è quello di aiutare le persone a tirar fuori le capacità, le potenzialità che già posseggono, ma che spesso intanto non trovano dentro di sé e poi naturalmente non utilizzano. Mettersi quindi nella condizione ideale per imboccare la strada del successo. Sbagliato qualcosa? No, direi che è assolutamente perfetto. Guarda, per fare un esempio facile, per far capire le persone un po', il paragone semplice è quello del personal trainer in palestra. Insomma, se tu vuoi tirar fuori il meglio dal tuo fisico, rimetterlo in forma, se hai qualcuno che è esperto nel settore, che ti segue, ti dà le giuste dritte e così via, ti aiuta a sfruttare al meglio quello che hai a disposizione. Ecco, il mio lavoro è un po' lo stesso. Aiuto le persone a sviluppare i loro muscoli, ma non quelli fisici, quelli mentali. A tirar fuori gli addominali emotivi, magari. Sì, esatto. Quindi, Roberto, se tu dovessi rivolgerti a un ascoltatore tipo di Cuore Denari, per così invitarlo un po' a lavorare su di sé, naturalmente stimolato e pungolato da te come un vero coach, no? Quali domande gli faresti? Beh, allora, io ho ascoltato tutto quello che avete detto. Alessandra ha detto delle cose molto interessanti. Ha detto che di fatto il successo è riuscire a vivere in qualche modo la vita che si desidera, cioè riuscire a realizzare ciò che è importante per me. E prima parlavate di successo solo in termini professionali, ma voglio dire, se io sono, che ne so, una mamma e la mia massima aspirazione è essere una gran mamma e non ho nessun interesse a avere una soddisfazione personale, il mio parametro di successo sarà quello, no? E se voglio fare l'eremita in cima a una montagna, se riesco a realizzare una vita dove riesco a fare quello che per me è importante, sarò una persona di successo. Quindi credo sia un po' passato il tempo del vedere il successo semplicemente con quanti soldi hai in banca, o se hai la macchina più lunga, o se sei sui giornali, perché il mondo è pieno di gente che ha queste cose ma non necessariamente è felice. E voglio dire, Alessandra faceva l'esempio del mondo dello spettacolo. Il mondo dello spettacolo è emblematico per questo. C'è un sacco di gente che per il mondo esterno è di successo, ma poi la conosci dietro le quinte e non faresti assolutamente cambio con lei. Allora, che tipo di successo andate cercando? Possiamo chiedere questo ai nostri amici? In quale ambito della vostra vita lo avete raggiunto, a che prezzo e a quale magari persona di successo vi ispirate? Non necessariamente deve essere una persona che ha potere, soldi, carriera, esatto, alle stelle. Quindi la prima domanda che gli farei è che cosa vuole veramente. Cioè, io, guarda, avete dato un po' di numeri, io vedo più di 20-25.000 persone l'anno, quindi ho questo lavoro particolare dove la gente mi racconta veramente di sé, dei suoi successi, dei suoi insuccessi, e ho una grande fortuna, perché ho proprio vuol dire sul campo la possibilità di imparare poi dalle persone direttamente. E devo dirti, la maggior parte delle persone non sa cosa vuole veramente. Cioè, ogni giorno fa delle cose e le fa perché si devono fare, perché si trova magari in una vita che oramai è strutturata e organizzata in quel modo, ma che non necessariamente la rende felice. E quindi mettere a fuoco che cosa voglio veramente per me e qual è il mio parametro di successo è la cosa fondamentale, perché se non so che cosa voglio ho zero possibilità di raggiungerlo. Quindi il mettere a fuoco cosa significa per me il mio successo è il passo principale per poterlo realizzare. Tra l'altro, magari per qualcuno è anche un po' questo atteggiamento un escamotage, se vuoi, poi per avere la giustificazione a portata di mano quando il successo non arriva, no? Quando la gratificazione, la soddisfazione professionale non arriva. Chiaramente, se non ti poni un obiettivo e non ti impegni a raggiungerlo, è più facile poi dire: ma insomma, la vita mi è andata così, sono stato sfortunato. Poi magari su questo aspetto ci torniamo. SMS o telefonate, Nicoletta? Allora, volevo leggere questo SMS di un'amica: lavoro tutti i giorni 8 ore, sono retribuita. Vado in palestra tutte le sere, in piscina una volta alla settimana, mangio tutti i giorni in modo corretto, riesco a stare dietro alle lavatrici senza frustrazione. Dedico tempo a tutte le persone che mi vogliono bene, direi che sono una donna di successo, no? Ale? Sono perfettamente d'accordo, e sono d'accordo con quello che diceva Roberto prima, perché effettivamente molte persone hanno tanta confusione in testa e vivono un senso di inadeguatezza e di insoddisfazione a cui non sanno dare risposta e non sanno il perché vivono questa sensazione, e uno dei motivi è proprio quello che non hanno ben chiaro che cosa desiderano veramente. Il desiderio, che ne dicano i fedeli, i guru orientali, no? Che il desiderio fa male perché ci turba. In realtà, quantomeno per noi occidentali, il desiderio è un grandissimo motore. Se io non so che cosa desidero, non posso ottenere nessun tipo di risultato e riesco di vivere un po' in quella nebbia, in quella indeterminatezza che poi mi fa sentire frustrato. Ma frustrato di cosa? Non lo so nemmeno io. Così come a volte nella comunicazione manca la chiarezza degli obiettivi. Io faccio fare un esercizio, a volte quando faccio anch'io i miei corsi sull'autostima o sulla assertività, di a questa persona che ti crea dei problemi, delle cose, parlale. E queste persone, chiedile qualcosa, non sanno effettivamente cosa come chiedere. A volte ti rendi conto che hanno delle lamentele vaghe, ma in realtà cosa vuoi da questa persona? È un po' la stessa cosa, manca la chiarezza degli obiettivi e dei desideri, e questo crea chiarezza, obiettivi, desideri, e poi bisogna essere pronti al cambiamento, attrezzarsi un po' anche per il cambiamento. Linda, buongiorno da Roma, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a lei. Ascolti, intanto volevo dire che non bisognerebbe trascurare così come inteso successo in senso universale. È vero che il successo in senso universale è inteso come quello professionale, perché sappiamo bene che il linguaggio nasce dall'alto e va verso il popolo, nasce dal popolo ed assume un nuovo significato. In questo caso condividiamo tutti che avere successo nella vita è averlo in senso professionale. Non ho mai sentito dire di un uomo o di una donna che accudiscano bene i figli, quelle sono persone di successo, mai. Ma infatti lo dicevamo prima, Linda. Detto questo, è vero che il successo è assolutamente individuale, nel senso che noi comunque dal desiderio passiamo agli obiettivi. Come? Noi dal desiderio passiamo agli obiettivi attraverso una data. Le persone, per esempio, quando io lavoro con i miei pazienti, sono educatrice degli adulti e chiedo di esprimere i propri desideri, la maggior parte delle persone non sanno rispondere. E come anticipava Alessandra Faiella. Sì. Esattamente, perché non sanno rispondere? Non solo perché non sanno concretizzare poi verbalmente quello che è il loro desiderio, ma non si concentrano sul desiderio, e aggiungo a quello che ha detto Roberto Re, che conosco tra l'altro, che non si danno un timing. Quindi affinché questo desiderio si trasformi in obiettivo mi devo dare anche una data, e soprattutto devo valutare le risorse che ho per realizzare questo desiderio. Insomma, fra Alessandra Faiella, grazie Linda, grazie per il suo intervento che ci ha acceso dei pensieri, insieme a quelli di Alessandra Faiella e del nostro Roberto Re. Quindi obiettivi, desideri e anche tempo. Il mio segreto? Fare sempre diverso dagli altri, avere fede, tenere duro e mettere ogni giorno al centro la Valeria, che è la padrona di tutto, l'amministratore delegato, colei che può decidere del tuo successo o della tua fine, quella che devi rispettare, che non devi mai tradire, ma capire fino in fondo. La Valeria è la mamma che fa la spesa, la nonna, la zia. È il consumatore che decide cosa si compra ogni giorno. Beh, abbiamo così estrapolato da questa intervista Mario Calabresi, pubblicato sulla Stampa, la definizione del successo del papà della Nutella, Michele Ferrero, scomparso pochi giorni fa. E allora c'è una Valeria con cui bisogna fare i conti per avere successo, anche naturalmente per chi non deve vendere, lo chiediamo. La casalinga di Voghera. E qualche cosa di più della casalinga di Voghera. Quindi c'è una Valeria con cui noi dobbiamo comunque fare i conti, relazionarci, forse è una Valeria che è dentro di noi. Roberto Re, chi è? Sì, assolutamente. Quello che cerco di fare nei miei corsi, quando lavoro con le persone, è fargli capire la differenza fra l'avere successo e l'essere di successo, perché questa credo sia una differenza enorme. Un conto è averlo successo, e in realtà quello può accadere anche per una serie di circostanze. Io credo che la cosa più importante sia essere di successo. La persona che è di successo, non lo ha alcune caratteristiche che la rendono tale, ha un certo modo di rapportarsi con se stessa, un certo tipo di autostima, come diceva Alessandra. Alessandra, certo, aspetta che intanto Roberto ti interrompo, Alessandra vuole puntualizzare qualche aspetto. Dicevo, hai citato giustamente poi il binomio avere o essere, no? Però quello che purtroppo preme è anche il condizionamento sociale, cioè è vero, tutte, esatto, queste cose sono molto vere, per cui noi sappiamo che cos'è il successo, che è la realizzazione, però per la nostra società ancora il successo si materializza e si concretizza nell'avere tanti soldi, nell'avere notorietà, nell'avere visibilità, e questa cosa è molto forte, perché io vi faccio un esempio piccolissimo e privato, ma io ho un figlio di 13 anni, quasi 14, e mio figlio sostiene che chi è ricco ha successo, chi è sui giornali ha successo. Per lui la persona con i soldi, con un lavoro che le fa guadagnare bene, appunto, o che appare in televisione, è lui o lei la persona di successo. E i ragazzi sono molto una cartina di tornasole, no? Cioè veramente i ragazzi ci segnalano quali sono i condizionamenti più forti, perché loro sono purtroppo molto sensibili ai condizionamenti sociali. Quindi dobbiamo sempre relazionarci anche con questi messaggi che ci vengono dati più o meno esplicitamente dai media, insomma in generale dalla società. Qualche volta, oltre al contesto sociale, secondo me qualche elemento di frustrazione arriva anche da un ambito più ristretto, che è quello familiare. Dico questo perché c'è questo bel messaggio del nostro amico che ci scrive da Bari, che ci racconta: lavoro per una multinazionale come analista, faccio le medesime analisi tutti i giorni e ascolto anche Radio 24 per tante ore. Lo faccio da 9 anni, ne ho 30, voglio cambiare, ma ho tutti contro, a partire dai miei, perché al momento il mercato è fermo. Che cosa faccio? Roberto Re, nostro amico, venisse ad uno dei tuoi corsi, quindi l'inizio, perché lì è fondamentale, una volta che si ha la consapevolezza del proprio limite rispetto all'accettazione, no, di tutto. E capisci che non sei realizzato. Guarda, mi aggancio a quello che ha detto Alessandra, che è perfettamente collegato a quello che chiede il nostro ascoltatore. Io tengo corsi di leadership, il mio libro principale si chiama Leader di te stesso, quindi è verissimo quello che ha detto Alessandra, c'è un condizionamento culturale, ma la leadership sta proprio nel sapere in qualche modo gestire me stesso e andare verso la mia strada, perché sennò il problema è che seguo la strada di qualcun altro, e se seguo la strada di qualcun altro quasi mai mi renderà felice. Ed è l'esempio di questo ragazzo che scrive, dice: io vorrei cambiare, però tutti mi dicono di non farlo. Il problema è che se lui continua a ascoltare quello che gli altri gli dicono, continuerà a vivere la vita che loro vogliono che lui viva, ma non è necessariamente quella che vuole lui. E quindi questo, Roberto, significa che tu devi mollare dall'oggi al domani quello che fai. Però se questa cosa non mi rende felice, devo iniziare a pianificare una via d'uscita e iniziare a ragionare su come farlo. Se quindi non concretamente lui che cosa dovrebbe fare? Prendere di petto i genitori e magari dire: guardate, mi vedete, sono insoddisfatto, secondo voi, per voi la felicità è vedermi così o vedermi realizzato? Il problema è che molto spesso i genitori che arrivano da un altro mondo, da un'altra era, con regole diverse e con una mentalità diversa, non così facilmente accettano questo ragionamento, ed è lì che viene messa alla prova, come diceva prima Alessandra, il tuo desiderio, cioè quanto vuoi veramente un qualcosa di differente, perché a volte per ottenere quello che vuoi devi essere disposto a lottare, e la lotta più dura è proprio andare contro a volte le persone che vuoi bene, certo, che stimiamo, ai condizionamenti sociali, ai sensi di colpa che tutto il mondo cerca di farti. Però io credo che se questo ragazzo avesse, come dicevamo prima, chiari gli obiettivi e mettesse i suoi di fronte a qualcosa di già presente nella sua immaginazione o nella sua realtà, io non ho più voglia di fare questo ma ho in mente quest'altro progetto, voglio fare Masterchef oppure voglio fare lo chef, quindi, o voglio aprire un agriturismo, li mette di fronte già una realtà. Se invece li mettesse soltanto di fronte a un'insoddisfazione, è chiaro, una che prospettiva genitori, teorica è chiaro che i genitori gli direbbero, certo, Ciccio, quindi l'invito al nostro amico è di lavorare un pochino su di sé, intraprendere quello che... Sì, certo. È sicuramente vero il fatto che se lui avesse già ben chiaro dove vuole andare è più facile farlo vedere anche ai suoi genitori, ma questo non garantisce per niente il fatto che i suoi genitori dicano vabbè, allora crediamo in te, vai in quella direzione. Mm-hmm. Anzi, nel mondo reale questo probabilmente non succederà, quindi lui deve trovare dentro di sé quelle risorse e non cercare l'approvazione nel mondo altrui, sì, nel mondo esterno, ma cercarla dentro di sé e avere fiducia nel fatto che quella è la sua giusta scelta, e che se è la giusta scelta alla fine le cose andranno bene, perché a volte insomma devi anche crederci, vedere quello che gli altri non vedono, no? Ed è tutto lì la differenza, perché viviamo in un mondo dove molta gente è insoddisfatta, però poi non fa niente per cambiare quelle cose, che non vuol dire dall'oggi al domani mollo il lavoro e rischio tutto, perché magari non è saggio farlo, però non ci prova neanche, non crea neanche le condizioni, perché in qualche modo è talmente influenzata dall'esterno da non riuscire a scegliere per sé, e questo è terribile. E dopo aver parlato di successo lavorativo e personale, ci lasciamo per una piccola pausa, poi torniamo qui per occuparci di dolci e di quella voglia di carboidrati che ci prende a metà mattina o dopo pranzo. Trattenete il languorino, ne parliamo tra poco. State ascoltando un programma offerto da... ProBios, l'azienda italiana dei prodotti biologici vegetariani e per intolleranze alimentari. Cuore e denari. Bentornati a Cuore Denari, continuiamo a tenervi compagnia in questa puntata speciale di Pasquetta. In questa seconda parte della trasmissione abbiamo deciso di riprendere insieme tutte quelle ricette che ci aiutano a stare bene e nello stesso tempo a nutrire il nostro corpo in modo equilibrato, partendo da un'ottima torta di cioccolato. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico, senologa all'Istituto Europeo di Oncologia, e insieme al dottor Attilio Speciani, il nostro dottor Noce, che in realtà è specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano e autore di Colazione e brunch per il benessere anche a Pasquetta. E c'era pure il mio amico Edoardo che ha fatto scoppiare un petardo, così con quel botto ha spaventato un bassotto. Indovinate chi è che ha rincorso alla... Abbiamo la torta di cioccolato, non di cioccolato e pere ma di cioccolato e albicocche. Abbiamo preso un elenco di 9 ricette, tutte dolci, da un libro di cui parliamo oggi, Colazione brunch per il benessere, un libro scritto dalla famiglia Speciani, diciamo così, sì, esatto, da Attilio, Michela e anche la moglie di Marina, e dove non ci sono solo ricette dolci ma ricette anche salate, che hanno in comune una caratteristica di base che ci aiutano a stare bene, perché sono state proprio create per dare delle risposte al nostro organismo ma per nutrirlo in modo equilibrato, coniugando, come spesso si dice, gusto e salute. Una fetta di torta di cacao e albicocche, un pancake alle mele, una fetta di pane integrale alle noci, uno yogurt greco e miele, waffle di avena e mirtilli, una crepa alla crema di gianduia, una fetta di torta di cocco, un frullato di banana.

E ben ritrovati a Cuore Denari in questa puntata speciale per il giorno di Pasquetta, in cui stiamo aprendo il nostro album dei ricordi. Una giornata come quella di oggi viene da molti trascorsa in famiglia, quindi può essere anche l'occasione giusta per discutere un po' tutti insieme sulla gestione dei denari delle nostre case. Ogni famiglia ha i propri strumenti per tenere un bilancio. Noi ne abbiamo parlato con il professor Giovanni Vecchi, professore di economia politica all'Università di Roma Tor Vergata, che questi bilanci li ha studiati analizzandoli e classificandoli a partire anche da molti documenti storici. Professor Vecchi, allora, lei si occupa di teoria, misurazione e storia del benessere, una disciplina molto bella, e su questi temi ha pubblicato numerosi articoli sulle principali riviste internazionali. Oltre a tutto ciò è anche autore per Il Mulino di In ricchezza e in povertà, il benessere degli italiani dall'unità a oggi. È consulente per la Banca Mondiale in tema di misurazione e stima della povertà e diseguaglianza economica. Potremmo andare avanti, ma quanto della condizione di una popolazione, dello stato di salute di una società, passa anche da come le persone fanno i conti e sanno tenere sotto controllo il proprio bilancio? Ma tenere i conti di famiglia è un'operazione che serve ai singoli, cioè alle famiglie, e forse avremo occasione anche di spiegare perché, ma in sostanza aiutano a cogliere bene come viene il proprio comportamento di spesa e si responsabilizzano, quindi una volta che uno capisce poi agisce anche di conseguenza. Una popolazione che è abituata a tenere i conti è anche probabilmente più incline a seguire i conti della comunità a cui appartiene, della propria provincia, della regione, dello Stato, e quindi matura anche un po' di necessità di avere trasparenza, chiarezza, che è una cosa, direi, che fa bene, per riassumere, fa bene al singolo, fa bene alla comunità, e le chiacchiere vanno bene, ma insomma i numeri vanno meglio. Ecco, le chiacchiere stanno a zero, come si dice in un film molto famoso. Tra l'altro, quando noi parliamo di questo argomento, professor Vecchi, molti ascoltatori ci raccontano la propria esperienza familiare e ci indicano come tengono i conti di famiglia. Per tanti altri invece appare un'operazione molto complicata, molto difficile, persino tenersi da parte gli scontrini della spesa fatta nell'ultima settimana, di tutti i pagamenti fatti con il bancomat, con la carta di credito. Per qualcuno risulta essere uno sforzo davvero complicatissimo. In realtà lei, in circa 20 anni di attività, ha raccolto e analizzato e classificato circa, senti qua Nicoletta, 20.000 bilanci di famiglia. 20.000? Ma dove li ha trovati, professor Vecchi? Ci può raccontare come ha fatto, di che famiglie si tratta, di quali epoche, di quale estrazione, che tipo di documenti si è trovato a studiare? E come le è venuta questa idea? Perché, cioè, sì, non è che venga tutti, un po' originale, devo direi. Devo riconoscere, ero giovane, ero molto giovane. Ha cominciato alle scuole medie a fare questa raccolta di documenti. Altre cose che non va bene, ma dopo un po' più, età più matura, all'università, a un certo punto bisogna fare la tesi, e io ero studente, ed ebbi il buon consiglio di due professori dell'epoca, Nicola Rossi e Gianni Toniolo, entrambi lavoravano all'Università di Ca' Foscari a Venezia. Che bello, pensate. E loro mi detterebbero fiuto, suggerirono di guardare un po' questa fonte, questi documenti, perché per chi è interessato a temi sociali, naturalmente i conti di famiglia, i conti delle famiglie, sono un libro aperto che racconta non solo della contabilità, ma delle difficoltà che le famiglie devono superare, come affrontano gli imprevisti, quindi sono documenti molto più eloquenti che non un semplice prospetto ragionieristico. Ma dove ha cominciato? Dove è andato a cominciare? Dove ha iniziato questa sua ricerca? Perché non credo che si sia messo a bussare alle porte delle persone. La scommessa è questa: i bilanci di famiglia oggi sono uno strumento molto noto, tant'è che l'Istituto Nazionale di Statistica, oltre che la Banca d'Italia, ogni anno intervistano decine di migliaia di famiglie proprio per raccoglierne i conti, ma questo è uno strumento recente del secondo dopoguerra. Noi abbiamo iniziato a raccogliere questi bilanci cominciando dal 17 marzo del 1861, quando venne proclamato il Regno d'Italia, all'epoca, naturalmente, di quell'epoca non sappiamo niente. andando negli archivi, andando nelle biblioteche, piano piano è emersa una ricchezza insospettata di questi documenti, che venivano raccolti per motivi più diversi. Nell'Italia liberale, quella che diciamo i primi 50 anni fino alla soglia della prima guerra mondiale, la povertà non interessava a nessuno. Per i liberali la povertà era una colpa, era sinonimo di ozio, aiutare i poveri era un incentivo all'ozio. In realtà abbiamo scoperto che i bilanci di famiglia venivano raccolti, e come, ma dal prefetto, e una popolazione troppo povera avrebbe potuto mettere a repentaglio l'ordine pubblico. Quindi, anche se raccolti con fini diversi, abbiamo trovato miniere di bilanci di famiglia che venivano appunto raccolti per essere certi che la massa della popolazione non fosse troppo indigente, tanto da iniziare a prendere forconi o a mettere a rischio l'ordine. Esatto, come peraltro succede anche in epoche recenti, naturalmente, come abbiamo visto con gli indignados spagnoli, non soltanto per scomodare un po' fatti sociali recenti. Avete creato quindi, professor Vecchi, questo gigantesco database che peraltro si alimenta continuamente, perché, come dire, le fonti sono, immagino, interminabili. Siete riusciti a costruire questo profilo della ricchezza e della povertà delle famiglie italiane, un vero e proprio giacimento di informazioni. Oggi che tipo di fotografia possiamo scattare rispetto a tutto il materiale che avete a disposizione, e soprattutto poi che cosa ne fa anche la ricerca? Sì, la ricerca fa una cosa importantissima, racconta agli italiani una parte della loro storia che non conoscono. Cioè, noi sappiamo tutti che l'Italia era un paese povero diventato ricco nel corso di 150 anni, adesso è alle prese, naturalmente, come sappiamo, della difesa di questa ricchezza. Tuttavia non sapevamo se questo processo di fuga dalla miseria fosse stato un processo equo, che abbia cioè coinvolto e riuscito a sollevare dalla povertà tanti, oppure no. Allora, questi bilanci sono il modo con cui noi riusciamo a capire se gli italiani sono diventati quello che sono in maniera equa, diciamo così, se siano riusciti a beneficiare i segmenti più in difficoltà della popolazione. E ne esce un quadro positivo: l'Italia è riuscita a coniugare la crescita a una buona distribuzione del reddito, tutto questo fino agli anni 90. Gli anni 90 c'è una cesura, gli anni 90 e il Novecento ormai sono 20 anni, come credo non sfugga a nessuno, che l'Italia non riesce più a crescere in termini di reddito, diciamo così, anzi stanno contraendo consumi, redditi. E l'aumento delle disuguaglianze è molto accentuato. Professor Vecchi, le volevo leggere un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: con gli euro è impossibile tenere sotto controllo i conti, basta un imprevisto e gli euro non ci sono più. Effettivamente in molti riconducono la crescita della vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane anche a questo passaggio epocale, no? Dalla nostra vecchia moneta a quella che invece adesso identifica un po' tutta l'unione monetaria. Ma tenere sotto controllo le finanze della famiglia è comunque un buon passo per essere più preparati a saper gestire gli imprevisti. Lei che cosa ne pensa? Cosa insegna anche in questo senso, in questi termini, la ricerca che lei continua comunque a condurre su questo campo? Sì, sì, tenere i conti è una cosa utilissima, perché le persone, questo è accaduto con l'euro, come giustamente il nostro ascoltatore ha sollevato, hanno una percezione che molto spesso non coincide con la realtà. Allora, tenere i conti è un esercizio utilissimo, anche farlo una volta o due per avere un senso di quello che è la propria capacità di cogliere i fenomeni, anziché solo immaginare come siano. Spesso le sorprese sono grandi, quindi è un esercizio che dà consapevolezza e aiuta ad affrontare le tempeste, se non a prevenirle quando si presentino. Ma professore, a proposito di esercizio, ha proprio concretamente un esercizio da suggerire ai nostri ascoltatori per imparare a rendersi conto delle proprie entrate e delle proprie uscite finanziarie? Ad esempio, calcolare quanto ci costa una certa cosa in un anno e non solo per la singola settimana, può farci rendere maggiormente conto dell'entità di quella spesa? L'esercizio può essere veramente semplice. Io continuo a non essere in grado di svolgerlo, nonostante predichi sulla facilità di farlo. Ma non ci dica così, che lei predica bene e razzola male. La ricetta è molto semplice: basta prendere un piccolo diario, esattamente come viene dato alle famiglie che partecipano alle inchieste dell'Istat o della Banca d'Italia. Nel diario si annotano le settimane, scusate, se notano le spese e le entrate che si verificano nel corso della settimana. Credo che un segreto importante sia trovare un quarto d'ora per fare le somme, perché se uno si limita ad annotare, dopo un po' la lista è tanto lunga che uno è scoraggiato, dice non ho tempo e quant'altro. Si fanno le somme e i calcoletti a fine settimana si sommano per grandi categorie, quindi quanto si è speso in alimentari, quanto si è speso per la casa, quanto si è speso il vestiario, salute, istruzione, e poi si fa una categoria residuo, quindi 4 o 5 grandi voci. Mm-hmm. Quando si fa, si ripartisce queste voci su un totale di 100, secondo me un po' di persone avranno la sorpresa. Delle sorprese. Allora Deborah, Cuore Denari per oggi finisce qui, ma la Pasquetta naturalmente continua e noi torniamo come sempre domani alle 11. Proprio così, appuntamento come sempre dalle 11 alle 12.30 in diretta con una nuova puntata e ancora tanti tanti auguri di buona Pasqua dalla donna di Denari e dalla donna di Cuore. A domani!